Al Via Porretta Film Festival, una nuova edizione, siamo con Luca Elmi. Buongiorno Luca. Buongiorno, grazie dell'invito. Ben trovato, sempre un piacere, seguiamo ogni anno questa rassegna. Quest'anno quali novità? Ah, di novità ce ne sono tante. Prima è il periodo che quest'anno inizia il sabato 7 e finisce un sabato, quindi abbiamo in qualche modo due weekend di cinema a Porretta. Oltre 40 film tra lungometraggi e cortometraggi che verranno presentati a Porretta e al Cinema Cursal, allo storico Cinema Cursal, e abbiamo come ogni anno un grande regista che viene a presentare la sua filmografia e a incontrare il pubblico, e quest'anno è Abel Ferrara. Regista newyorkese, regista americano, è un, diciamo, un'icona del cinema abbastanza impegnato. Verrà a Porretta l'8 dicembre, sarà con noi tutta la giornata, dove riceverà anche un premio alla carriera. Oltre, diciamo, i grandi autori, ci sarà come ogni anno il concorso Fuori dal Giro, quindi 5 film italiani presentati dai loro registi che incontreranno il pubblico. Ci sarà la giuria dei ragazzi che cercherà in modo, diciamo, anche molto impegnato di dare un premio, a una menzione speciale a uno di questi film. Poi abbiamo tanti eventi speciali. Tra il cinema albanese verrà presentato il film Broken e avremo l'anteprima italiana del film Dance Again with Me Haywood, un film che è stato presentato l'altro giorno a New York e che vedrà il suo regista Michele Diomà a Porretta per l'anteprima italiana. Quindi ci sono tante altre novità, non ultima il premio Petri. Premio Petri, quest'anno ne avevamo già parlato le scorse edizioni, quest'anno è diventato realtà. Ci sono una giuria capeggiata da Walter Veltroni che il giorno 14 decreterà il vincitore del primo premio dedicato a Elio Petri. La cosa molto carina è che il premio fisicamente è stato creato dall'azienda DEM, che è un'azienda meccanica del territorio, che proprio nel 1971 fu protagonista dell'incontro tra gli operai e il regista e Gian Maria Volonté, quindi è un doppio legame con questo autore. Tutto questo grazie anche al lavoro e alla voglia di organizzare questa cosa della moglie di Petri, che è stata entusiasta di aiutarci in questa avventura. Tra una chiacchiera e l'altra, che edizione siamo arrivati? Alla 18, quindi maggiorenni, quindi ora deve camminare con le sue gambe. Mi sembra già da un po'. Ogni anno cerchiamo, perché poi dobbiamo tenere conto che Porretta è in cima all'Appennino, quindi portare gli autori, portare il pubblico è sempre più difficile che in un centro di una città. Credo che ci stiamo riuscendo con tante difficoltà, grazie anche all'aiuto di tutti gli sponsor, delle istituzioni, non dimentichiamo il Comune di Altoreno, la Regione che ci sta dando un enorme aiuto e il MIBAC. Quindi per ora diciamo che tra il cinema e Porretta c'è un matrimonio che funziona, speriamo che continui così. Certo, inizio ufficiale? Il 6 sera pomeriggio, dove inauguriamo la mostra dedicata a Gian Maria Volonté. Quest'anno sono i 25 anni, proprio il 6 dicembre sono 25 anni dalla scomparsa di Gian Maria Volonté, e dedicheremo una mostra organizzata con il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Cineteca Nazionale, che verrà ad inaugurare nei locali adiacenti al cinema questa mostra inedita, quindi ci fa molto piacere, che poi speriamo venga portata in altre zone d'Italia. Certo, sedi del festival oltre lo storico Cursal? Storico Cursal, diciamo, abbiamo uno spazio adibito proprio per il festival di fianco al cinema. Ci sarà la galleria gomma bicromata, dove tutte le mattine verrà fatta una full immersion di cortometraggi e selezionati dalla selezione Emiliano Romagnola di 16 corti, un altro festival, un festival amico romagnolo, che ha per noi selezionato i film e verrà in qualche modo, abbiamo chiamato questa nuova sezione caffè corto, insomma fai colazione alla mattina con un caffè, un tortino Porretta e un cortometraggio, quindi vi invitiamo proprio a provare questa nuova dimensione. Poi ci sarà il Teatro Testoni, che vedrà l'incontro con Abel Ferrara e vedrà i ragazzi che incontreranno Andrea Dalpian per i maestri del cinema, e quindi quest'anno ci sarà il direttore della fotografia, insomma tante attività che è difficile metterle in fila e ricordarsele tutto per un'intervista. E a tale proposito consigliamo una piattaforma online per consultare più comodamente gli appuntamenti? Sì, abbiamo il sito www.porrettacinema.com, dove è stato inserito il programma, dove ci sono i contatti, se qualcuno volesse avere informazioni può scriverci a info@porrettacinema.com. Poi abbiamo la pagina Facebook dove ovviamente vedono tutte le novità e vedono e possono interagire con noi. Io qui per le mani ho un tortino Porretta, che direi è l'oggetto, uno delle merende vintage per eccellenza, però ancora ben presente. C'era il famoso gioco, no? Mangiarlo in tre morsi camminando senza soffocare. Non soffochiamo di certo, se non che di cinema meraviglioso e di grandi idee. Questa collaborazione è la prima volta che trovo questo omaggio graditissimo, peraltro. A volte le cose più vicine non si riescono a mettere insieme, o comunque non ci si pensa. Quest'anno abbiamo pensato, c'è Porretta Cinema, c'è il Festival del Cinema di Porretta, cosa sono le cose più tipiche di Porretta? In questo caso la DEM, siamo andati a chiedere una collaborazione, e Porretta, il Tortino Porretta, e abbiamo chiesto di collaborare con loro, e loro vogliono parlare di Porretta in due modi diversi, cinema e dolciumi, perché certo. non unirle insieme. Da goloso sono ben contento, sia di cinema che di dolciumi. Grazie Luca. Grazie a voi, ciao.